qua. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Buona domenica da Gigi Telesforo, da Silvia Barba e Francesco Tromba, ben ritrovati qui dal Groovemaster Studio per il soundcheck di Radio 24, puntata quella di questa sera dedicata a un talento incredibile, ancora giovanissima, questa bellissima ragazza protagonista del panorama internazionale della musica degli ultimi anni, ha già vinto tantissimi premi, un curriculum incredibile, potrebbe avere 70-75 anni leggendo il curriculum, invece è nata soltanto nel 1984 e vi stiamo parlando di Esperanza Spalding. Esperanza Spalding, che ragazza nata a Portland nell'Oregon, ha iniziato prestissimo a suonare, sconvolgente il suo talento, forse paragonabile a quello di Jacob Collier, no? Sì, beh, sono due talenti, due bambini prodigio si può dire per entrambi, perché iniziano subito a suonare. Lei pensa a 5 anni già comincia a suonare il violino, che non è uno strumento facilissimo, no, da suonare, infatti. Seguendo appunto gli insegnamenti della madre, e entra subito nella Chamber Music Society di Oregon. E dopo 10 anni esce da questa grandissima orchestra come primo violino. Ecco, e poi che fa? Lei arriva subito alla Berklee College of Music, e che cosa succede? Perché so che lei ha avuto un full credits, significa che la Berklee ha pagato tutte le rette per sì, lei. Sì, allora, lei aveva 16 anni, finisce il college, si diploma in musica anche lì, perché comunque aveva studiato musica anche al college, prova a fare appunto la domanda alla Berklee, che gli dà il full credit, però lei non aveva i soldi per andare a stare a Washington, a Boston. Quindi c'è una sua amica che gli organizza un concerto per fare una sorta di fundraising, per in modo tale appunto di arrivare a Boston e stare lì i primi mesi, perché altrimenti lei non avrebbe praticamente campato. Sì, tanto per raccontare agli amici, la Berklee di Boston è una delle scuole di musica più care in assoluto, cioè sì, veramente ci vogliono quasi 60-70 mila dollari, 67 mila dollari all'anno. All'anno soltanto per frequentare la scuola. Poi la scuola ti chiede di comprare il computer per i programmi, ti devono vendere i programmi, i software per fare quelle lezioni, e poi ti devi mangiare, devi dormire e anche divertirti ogni tanto, no? Però lei era talmente brava che dopo pochissimi anni è diventata insegnante del Berklee Music College. Beh, ha ripagato anche lo sforzo che ha fatto la Berklee, nessuno sforzo, perché naturalmente hanno ospitato un formidabile musicista che poi ha portato a casa Grammy Awards, tutti i premi che ha vinto, e continua a frequentare la scuola come insegnante. La più giovane insegnante. A fatto 20 anni. Che inizia la sua carriera discografica nel 2006, quindi insomma pochi anni fa, ragazzi, con un album intitolato Giungio. Sinceramente a me il primo album mi lasciò un po' perplesso, sì, jazz contemporaneo, già veniva fuori il suo talento come contrabbassista, perché il primo strumento è il contrabbasso, e poi una cantante eccezionale, anche se ha una voce molto particolare, non di quelle stereotipate, omologate, tipiche da black music o del gospel, no, una voce esile, ma di un'intonazione, quello che riesce a fare tecnicamente ha dell'incredibile. Vorrei partire con Esperanza Spalding, proponendovi qualcosa però dal suo secondo album, che invece ha un suono che è già quello che poi ritroviamo nella produzione attuale di Esperanza, album intitolato proprio con il suo nome, Esperanza 2008, il brano è splendido, si intitola I Know You Know. The way you look at me when you think I'm not looking tells me you're not the sleeping giant born by someone you loved before me. I see you're scared, unconvinced by what I've tried to say, that I am yours and that nothing will take me away. I see it again. E oggi celebriamo il talento infinito di Esperanza Spalding, contrabbassista, polistrumentista, cantante, sfornata dalla Berklee College of Music, dove è diventata insegnante. Oggi vincitrice di Grammy Award, ha realizzato diversi album, gli ultimi di una complessità impressionante, dove si sente tutto il suo background, l'amore per il jazz, la passione per la musica che la porta anche a sperimentare cose che ricordano il rock, rock progressive, alcune cose che sembrano proprio tirate fuori dal cilindro di Frank Zappa, Francesco. Sì, un diciamo molto completa dal punto di vista del sound, ha un approccio decisamente totale, olistico potremmo dire. Tra l'altro si accorgono di lei, del suo talento subito, sia Pat Metheny, che ha sempre delle parole al miele per lei e dice sempre che è appunto un fenomeno assoluto. Sì, ma poi a Pat Metheny piacciono le belle ragazze, dai. Oltre a questo. Lo posso confermare? Sì, sì. Però uno dei primi ad accorgersi, a portarla in tournée con la sua band, è stato Joe Lovano, un sassofonista che insegnava in quel periodo anche a Berklee, e tramite Berklee che la conosce, che conosce Esperanza Spalding, e la porta in tournée con la sua band. Ecco, musicista della nuova generazione che proviene dal jazz, conosce la tradizione della musica, ha suonato e studiato musica classica, ma è onnivora. E quindi con chi ha lavorato Esperanza Spalding? Ha lavorato con Stevie Wonder, con Alicia Keys, ma anche con i veterani del jazz, con praticamente tutti i veterani del jazz. E adesso mi spiego tante cose, perché ha frequentato l'ambiente del jazz e poi ha frequentato anche i grandi palcoscenici, quindi a un certo punto Esperanza Spalding si sarà detta: ma qua tocca fare un certo tipo di musica a cavallo fra il piacere di improvvisare, di scrivere cose anche complesse, ma tocca anche avere successo, o no? Beh sì, lei dopo l'uscita del suo album Musica da Camera, ti ricordi, Radio, sì, vuole fare invece un disco sui pezzi più radiofonici, che poi in radio passano poco perché comunque è musica molto sofisticata e anche ben scritta, però sì, le collaborazioni che poi fa dimostrano una grande padronanza, una grande personalità, che canti e suoni con Wayne Shorter a fianco o con Stevie Wonder davanti ad Obama, che insomma davvero dimostrava e dimostra oggi, non lo so, fa le cose semplicemente, sembra che non stia suonando dei pezzi così difficili e cantando contemporaneamente. E allora questa è la dimostrazione, Esperanza Spalding con un altro campione di oggi, il trombettista e in questo caso anche vocalist Nicholas Payton. Il brano è splendido, si intitola Freesia. Freesia, pretty little flower, the scent of freesia. Soundcheck. Il suono della musica. Esperanza Spalding, la stiamo celebrando, tutto il suo talento viene fuori anche in questo suo arrangiamento personale di I Can't Help It, brano portato al successo da Michael Jackson, ma scritto da Stevie Wonder, che troverete nell'album Radio Music Society del 2012. Ed è proprio con questo album che Esperanza Spalding conferma il suo talento e si fa conoscere in tutto il mondo, perché scala anche alcune classifiche discografiche del jazz, anche se l'album poi strizza l'occhio al mercato più soul e R&B, ed è proprio con questo album che porta a casa diversi premi e anche alcuni Grammy Award. Ha vinto diversi Grammy Award Esperanza Spalding. Sì, ricordiamo il primo nel 2011 come Best New Artist, la prima artista di jazz a vincere in questa categoria. Poi ne ha vinti altri 3 su 5 nomination, ha avuto 5 nomination e ha vinto 4 Grammy Award, praticamente ha fatto quasi il pieno. Li ha vinti principalmente per Radio Music Society nel 2013. Ecco, che altro possiamo dire? Abbiamo detto tutto sul suo talento, suona tutti gli strumenti, dirige benissimo, scrive benissimo, è anche una bravissima regista, perché poi proprio per l'album Radio Music Society ha lavorato con una regista spagnola per realizzare tutto l'album in formato visual, ed è anche quella un'opera fantastica che è stata realizzata. Parla quattro lingue, troviamole un difetto, prego. Sarà antipatica? Non lo so, qualcosa dovrà avere, perché altrimenti davvero è spaventoso. Spaventoso. Vabbè, ma qualcuno la critica anche Beh, per sì, questo, come no? No? Io, guarda, recentemente ho letto anche un articolo in cui si diceva che avesse un po' la sindrome della secchiona. Sindrome della secchiona? Cioè, tu hai letto una cosa su Esperanza Spalding... Per la sindrome della secchiona. Ti spiego cos'è, ovvero una musicista di talento, da giovane, studia, partecipa a grandi festival, vince dei Grammy Award, è perfetta, luminosa, intelligente, non le si può dire nulla, però il tutto risulta ad alcuni un po' asettico, un po' poco emozionante, vista la perfezione delle sue performance. Ma cosa, la sua musica? La sua musica, la sì. Sua musica. Fa parte, diciamo, di una generazione di musicisti che hanno studiato tantissimo, che sanno davvero di cosa si sta parlando quando gli si mette in mano uno strumento o davanti un microfono, però non sbagliano mai, non c'è più empatia, non c'è... Ecco, il rapporto proprio di Esperanza con la musica, invece a Tromba, che col cognome che si ritrova... È un esperto anche di altro. Secondo te, come femmina, come Esperanza Spalding? Beh, fredda? Non mi sembra molto fredda, ecco, allora, molto interessante. Ecco, vedi Silvia, torna tutto a casa. Se riduciamo tutto a quello. No, non riduciamo a quello. Oh, stiamo parlando di un talento incredibile. No, è bravissima, però... Le vogliamo trovare un difetto? Sì, non lo so, troviamo. Ho i denti, c'è una fessura. Ne manca uno, sì. Le manca un dente. Che fa molto gangsta e quindi a volte piace. Piace di più. Esperanza Spalding incontra un altro campione di vocalità, ma vi rendete conto? È Bobby McFerrin. A un certo punto chiama Esperanza Spalding a cantare in questo album dedicato agli spiritual, e il brano che ascoltiamo si intitola Every Time. Every time I feel the spirit. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Pianoforte di Alfredo Rodriguez, una produzione di Quincy Jones, incontra la voce di Esperanza Spalding in questa composizione intitolata El Guige, per una produzione del 2013 dal titolo Invasion Parade, lo dicevo, realizzata da Quincy Jones per questo talento del pianismo contemporaneo. Ma la perfezione dell'intonazione nella pronuncia, tra l'altro un brano anche di una certa complessità, ma per Esperanza Spalding è una passeggiata. Sì, diciamo, facciamo un paragone calcistico, è come se lei fosse sempre Maradona nella finale con l'Inghilterra, qualsiasi cosa fa. È vero, cioè, è vero Tromba. Fa paura. Sì, sì, è spaventosa, tecnicamente impeccabile, e poi sinceramente Silvia non credo che sia una secchiona, mi sembra anche una ragazza divertente. Non lo so, non la conosco personalmente, da quello che insomma si dice è una ragazza molto intelligente, molto profonda. Certamente. Quando certamente sei così puoi essere solo o molto intelligente o autistico. Non c'è altro, no? Beh, c'è una spiccata padronanza anche degli argomenti che si trattano, che sia di musica o che sia di qualsiasi altro argomento, io credo che lei ne sappia. Bene, abbiamo celebrato Esperanza Spalding, vi lasciamo con un brano tratto dall'ultima produzione, ecco, questo album difficile. È difficilissimo. Un po' difficile. Anche noi, a me è piaciuto tantissimo, l'ho ascoltato diverse volte e a volte mi ha anche fatto venire il mal di testa. Sì. Purtroppo non quando, quando ascolti Esperanza Spalding, questo album di Esperanza Spalding, insomma, devi entrare nei meccanismi proprio della musica, e sono molto cerebrali e complessi, quindi qui veramente lei ha fatto un lavoro straordinario musicalmente parlando, però si è complicata la vita un po' per la vendibilità del prodotto, no? Sì, però aveva bisogno anche di un cambio d'immagine, infatti c'è stato anche visivamente il cambio d'immagine. È vero, ha cambiato l'immagine, il look, e non mi è piaciuto. A me non mi è dispiaciuto. Con quegli occhialoni, ha rubato gli occhiali a Enrico Ruggeri, è venuto a Radio 24, hai visto? Gli occhiali di Enrico degli anni 70, a fine anni 70, va bene, salutiamo Enrico Ruggeri e salutiamo anche voi perché il tempo a nostra disposizione è terminato, vi lasciamo con Esperanza Spalding, Unconditional Love, e ci risentiamo sabato prossimo alle 21, alle 19:15 qui su Radio 24 per il soundcheck. Grazie a Silvia Barba e Francesco Tromba. Grazie a te. We could change the whole story of love, same old play, I'm getting tired of. No more acting these predictable roles, just cause living unconditional. Soundcheck, il suono della musica.